Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, comincia il nostro viaggio. Ferry Boat questa volta ci porta a Milano, anche se poi navigheremo in acque tranquille ma articolate e originali, quelle di The Hub. Si chiama The Hub, ma non è un aeroporto, bensì la rete di centri per innovazione sociale più estesa al mondo e che a Milano ha gli occhi a mandorla. A sentirla nominare viene da pensare a Julia Roberts e al suo famosissimo Erin Brockovich. La nostra criminologa ambientale, però, si occupa per lo più di animali. Si chiamano Swap Party. Tranquilli, niente di scabroso, anzi, roba da atelier, anche se riciclata. Beh, dobbiamo da subito precisare perché c'ha gli occhi a mandorla The Hub. Intanto, Alberto Masetti Zannini è con noi. Ciao Alberto. Ciao Enzo, ciao a tutti. Co-fondatore e coordinatore di questo The Hub, che, insomma, se non avete capito in parole molto povere, è una rete di centri in cui si incontrano giovani e anche meno giovani che hanno idee di imprese sociali molto innovative, che non hanno le risorse, i locali, i soldi o più semplicemente anche le strutture per poterci provare seriamente. Ma sentiamo nella ricostruzione di questo video, di questo audio nel nostro caso, com'è cominciata l'avventura di The Hub e poi parliamo col suo cofondatore. Che è The Hub? The Hub. The Hub è il fulcro della ruota, così nasce come idea. È un bel mondo The Hub intanto. È come una microcittà, quello che penso alla fine che sia una riproposizione di una società in uno spazio. The Hub è un modo nuovo di lavorare insieme, è un punto centrale di una rete da cui partono progetti, in estrema sintesi. Poi potremmo parlarne per ore. Open, open, open, open. The Hub è uno spazio strano, pieno di persone, pieno di idee. The Hub è un posto all'interno del quale le persone trovano veramente uno spazio fisico e mentale e tutte le condizioni che fanno sì che in realtà dei progetti, delle idee, delle iniziative possano prendere corpo, forma e svilupparsi in un modo molto rapido e molto produttivo. Beh, detta così, Alberto Masetti Zannini sembrerebbe molto luogo di incontro psicologico, di confronto come nei vecchi tempi, in realtà invece è un luogo di impresa. Spieghiamo subito, gli occhi a mandorla perché la sede che avete scelto è in via Sarpi, che è il quartiere cinese di Milano, ma è un luogo di impresa, non è un luogo in cui ci incontriamo e ci parliamo, no? Sì, è un luogo di impresa, è anche un luogo dove ci si incontra. Io credo che, come è stato, come avete sentito da questa piccola introduzione, è difficile spiegare The Hub in poche parole, perché è sì un incubatore o un pre-incubatore di idee e di imprese volte a risolvere i problemi sociali e ambientali che ci circondano, ma è qualcosa di molto di più, è un complesso sistema globale fatto di spazi, di persone che vengono messe in rete tra di loro attraverso il lavoro di host all'interno di questi spazi, che siamo poi noi che abbiamo creato, che gestiamo sia le reti che gli spazi. E il ruolo degli host è quello di attivare collaborazione all'interno di questi sistemi. Ecco, io ho letto dal vostro sito, The Hub propone spazi, risorse, connessioni, conoscenze, talento, opportunità di mercato e investimenti. Noi nel nostro viaggio di oggi a bordo avremo anche alcuni rappresentanti di queste aziende che ci aiuteranno a capire, quindi è effettivamente un luogo estremamente operativo. È molto operativo, assolutamente. Nella pratica ovviamente funzioniamo anche un po' come un co-working, quindi offriamo delle scrivanie condivise dove la gente entra un po' come un aeroporto con i loro portatili, si piazza una postazione, lavora per un'ora, lavora per una settimana, e questa flessibilità è anche quella che permette al sistema di accompagnare il processo di creazione di idee, di lavoro di persone molto diverse tra di loro. C'è un'altra frase che mi ha colpito e che un po' ti vorrei chiedere di reinterpretare per noi. The Hub è diventata la rete di centri per l'innovazione sociale più estesa al mondo. La parola innovazione sociale ci piace molto, ovviamente, nell'anima e nel bagaglio genetico di Ferry Boat. Più estesa al mondo vuol dire che siete già in tanti ad aver avviato questa avventura. Sì, ci sono oltre 20 centri che sono già aperti in tutto il mondo, da da San Francisco, Berkeley, a San Paolo, a Oaxaca in Messico, Bruxelles, Amsterdam, Stoccolma, Bombay, e potrei andare avanti. E ce ne sono decine di altri che stanno cercando di attivarsi, persone che ci hanno contattato da città italiane, città europee, città africane, asiatiche, che vogliono far partire degli hubs. Nel senso di una di rete di spazi siamo la più grande al mondo, semplicemente perché in rete, come noi, non ci sono così tanti altri spazi per l'innovazione sociale. Ci sono molti altri partners e organizzazioni che lavorano in Canada, in Gran Bretagna, in altri paesi che fanno un lavoro simile al nostro, però la nostra messa in rete è anche forse la nostra forza più grande. Concludiamo con un'ultima riflessione, più che altro, Alberto, nel momento di grave crisi che comunque sembrava passasse, ma in realtà è ancora subdola, che ci circonda, le iniziative di questo genere servono un po' a stimolare una domanda che certamente fa molta fatica, cioè le nuove imprese hanno davvero degli ostacoli pressoché insormontabili da superare, e forse lavorare insieme aiuta un po', l'unione fa la forza, banalmente. Assolutamente. Condividere risorse è alla base del concetto dell'hub, ma forse l'altra cosa che è importante da dire è che noi stiamo aiutando quelle persone e quelle imprese che stanno creando un valore comune, che stanno creando qualcosa che serve, e forse questa è una riflessione che deve farci pensare. Quando così tante altre imprese stanno fallendo e altre idee e progetti stanno fallendo, il fatto che The Hub stia crescendo e si stia espandendo internazionalmente è forse simbolo di un momento della nostra storia socio-economica in cui noi vogliamo tornare a delle imprese che abbiano un valore reale. Bene, ovviamente non possiamo che augurarti in bocca al lupo, sentitamente. Ciao Alberto Masetti Zannini. Ciao. E da subito continuiamo con un altro degli ospiti a bordo di Ferribot. Ci ha anche molto incuriosito, oltre che ovviamente abbiamo sentito vibrare delle corde quando abbiamo letto, criminologa ambientale, perché insomma l'abbiamo letto qualche giorno dopo che nell'Ambro erano state scaricate alcune migliaia, centinaia, milioni di litri, non so la misura esatta, di petrolio. Vita Sgardello, ciao. Ciao, ciao. In realtà tu non ti occupi di inquinamento ambientale, ma noi abbiamo scritto nel sommario, abbiamo evidenziato intanto l'accostamento con Julia Roberts, che era più che altro ovviamente un gioco di parole, ma del fatto che tu ti occupi molto di protezione di animali, è corretto? Esatto, sì, sì. Vuoi spiegarci esattamente il tuo lavoro e a chi sei collegata a livello internazionale? Sì, allora io sono collegata a un'agenzia investigativa che si chiama RUADAN, che è specializzata proprio nell'investigazione di casi in cui ci sono crimini contro gli animali. È un'agenzia inglese che è stata fondata 5 anni fa e opera, diciamo, più che altro in Inghilterra, però anche in tutta Europa e a volte anche nel mondo. Ecco, tu fai proprio, cioè tu non sei lì come l'associazione protezione animali, dove tu chiami e dici stanno violentando dei cani, stanno eccetera, torturando dei gatti. Tu sei un'investigatrice, corretto? Quindi tu vai e cosa fai? Prendi delle iniziative? Esatto, noi siamo proattivi, perché il problema è che normalmente le forze dell'ordine e anche le associazioni reagiscono a delle chiamate, mentre noi siamo più proattivi, nel senso che andiamo a cercare proprio quello che sta succedendo. E non perché questo sia importante, la domanda che ti faccio è solo connessa al tema della puntata. È un'impresa, è un lavoro questo, remunerato, e da chi? Allora, noi siamo per adesso siamo un'agenzia, cerchiamo di diventare impresa sociale. Normalmente sono le ONG che ci chiamano e che ci pagano per i nostri servizi, però facciamo anche molte attività che paghiamo noi di nostra tasca, perché ovviamente è difficile trovare sempre i fondi. Bene, speriamo che questa trasmissione serva un po' anche a sollecitare l'attenzione su di voi. Un'ultima domanda ci è dovuta, siamo in un contenitore che è dedicato a questa puntata a The Hub, tu sei entrata dentro quella struttura e qual è l'esperienza che stai facendo? Pensi che The Hub sia ovviamente un'esperienza importante che può portare dei risultati veri? Esatto, certamente, io spero che ci aiuterà in questa fase di startup, perché vogliamo portare la nostra organizzazione a un livello successivo, e spero che ci aiuti in varie cose, non solo a cercare fondi, ma anche magari a incontrare altre persone che ci possono dare supporto e aiuto. Bene, grazie ovviamente anche ancora una volta un'altra giovane a cui dobbiamo augurare in bocca al lupo. Ciao Vita. Grazie. Ciao. Beh, insomma, voi capite quanto sia importante che questi giovani che hanno tanta voglia e anche molte idee, come vedremo anche con gli altri ospiti a bordo, condividere anche le preoccupazioni, le paure, visto il momento, ma soprattutto le opportunità. Quindi essere in una struttura come The Hub sicuramente accentua la condivisione e anche rafforza l'intraprendenza di questi soggetti. La poesia si finì. Fa piacere ascoltare esperienze di giovani che hanno idee, voglia e coraggio da vendere visto il momento, e fa piacere soprattutto rendersi conto che The Hub, al di là delle attenzioni, iniziative di carattere d'impresa, ha sicuramente anche, svolge un ruolo sicuramente molto importante dal punto di vista dell'incoraggiamento, del rafforzamento dell'intraprendenza di questi giovani, anche perché stiamo parlando di un tema, quello della sostenibilità, dell'ecologia, del green, come dir si voglia, che è di grandissima attualità. Per una volta possiamo anche ritenere che questo non sia un atteggiamento di maniera la solita bolla speculativa, ma una reale apertura verso mercati che ancora non sono ben conosciuti, ma che si preannunciano di grande rilievo. La musichetta che avete sentito e la poesia Se finì non è altro che il preannuncio del prossimo ospite a bordo, che è Sissi Semprini. Ciao Sissi. Ciao Enzo. Che è Green Bean e che è un'agenzia di comunicazione che in The Hub lì in via Sarpi, che ha titolo per affrontare proprio questo argomento, perché avete fatto una ricerca bella ponderosa con Tomorrow SVG su questi temi. Sì, quando abbiamo iniziato abbiamo voluto proprio capire, visto che ci rivolgiamo alle imprese, dove sono le imprese italiane oggi nei confronti della sostenibilità, anche perché noi ci siamo ispirati a modelli che dove in Nord Europa, anche in Nord America, sono ormai diciamo assodati, e volevamo capire in Italia. E abbiamo fatto questa indagine che ha riguardato 500 imprenditori, manager di imprese piccole, medie, grandi, multinazionali, pubbliche e private. Ecco, leggo dalla nota che mi avete mandato per rendermi edotto della vostra ricerca, che la parola d'ordine che riguarda il 50% di queste aziende è Think Green, quindi una variazione sul tema del green, cioè? No, beh, innanzitutto anche di più, sì, Think Green è pensiamo al verde pensando al futuro, ma assolutamente oramai è entrato il termine sostenibilità da un lato nel vocabolario di business, ma gli viene riconosciuto dal 76% del nostro campione proprio una priorità strategica. Quindi la sostenibilità non solo so che cos'è e so che cos'è nelle sue tre dimensioni sociale, ambientale ed economica, ma sono ormai convinto che deve essere integrato al mio business e alla mia gestione. Al contempo penso alla sostenibilità e penso che è un'opportunità quindi di innovazione e di sviluppo per nuovi processi, nuovi prodotti, nuovi servizi, questo per il 79%. Quindi il passaggio direi epocale, rilevante, dalla comunicazione to cure, sono un'azienda sostenibile, mi piace l'ecologia, vado all'impatto zero perché pianto gli alberi in America Latina, si sta passando ad una consapevolezza profonda che la sostenibilità è un sistema economico di sviluppo dell'impresa. Assolutamente, ma innanzitutto la sostenibilità è business, anche se poi non è esattamente ben chiaro e ci arriviamo dopo, ma la sostenibilità non è tendenza, non è quello appunto che dicevi tu, ma innanzitutto è business. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. La poesia si finì. La poesia si finì e ci preannuncia ancora l'ospite a bordo di Ferry Boat in questo viaggio su The Hub, che è la piattaforma dove si incontrano le imprese sociali che stanno tentando la grande avventura. Sissi Semprini, Green Bean con Tomorrow SVG hanno sviluppato una ricerca sulla reale consistenza di questa sostenibilità di cui tanto si parla, sia sociale che ambientale. C'è sicuramente un dato di fondo molto attivo, molto importante, però non sappiamo quanto questo dato di fondo sia tanto corposo statisticamente quanto realistico, concreto nei fatti. Poi Allora sì, da un lato le aziende, dicevamo, sono consapevoli che loro stesse possono essere cosiddette parte della soluzione ambientale, dall'altra che la sostenibilità crea valore per l'azienda, crea valore perché si è valorizzata attraverso la comunicazione, ma perché, come abbiamo visto, è una spinta proprio al cambiamento, all'innovazione, eccetera. Ma la domanda è oggi: qual è il tuo impegno? Allora, le aziende, allora invece qui vediamo che c'è un'enorme strada da fare, sono ancora poco impegnate, dice, ma qual è il vero valore qui e oggi? Probabilmente perché appunto concentrate nella risoluzione delle pressioni dell'oggi, invece del vedere, cosa che poi glielo riconoscono ma non l'agiscono, dalla sostenibilità l'elemento su cui assolutamente ricominciare a far profitti, a ridurre costi e a innovare. E a fare tanta comunicazione, così Green Bean è contenta, giusto? Lo speriamo. Ciao Sissi, grazie. Noi continuiamo con i nostri ospiti a bordo, questa volta a proposito di business e di budget. Parliamo con il presidente di una banca che si chiama Prestiamoci, che quindi insomma obiettivamente non poteva che essere una banca. Paolo Galvani è in linea con noi. Buongiorno, sì, presidente. Buongiorno. Non sapevo se chiamarla ciao in quanto presidente di una struttura di Deab e quindi molto disinvolta, o buongiorno presidente, perché è sempre presidente di una banca, no? Va bene, ciao. No, Prestiamoci in realtà non è una banca, ma è una finanziaria, quindi abbiamo una licenza, un'autorizzazione a operare come finanziaria, non siamo una banca. Voi siete una comunità di prestiti fra persone, giusto? Comunità, esattamente. Che funziona come esattamente? Come funziona? Beh, noi abbiamo costruito un sito web, una piattaforma online, che permette in qualche modo di poter mettere in contatto persone con dei progetti, progetti legati alla famiglia, piuttosto che non progetti, piccoli progetti imprenditoriali, con altre persone invece che hanno dei risparmi, una parte dei loro risparmi, e che sono interessati e intenzionati ad investire su questi progetti attraverso appunto un prestito. Che avviene rigorosamente via web, cioè tutto online, non ci sono sportelli, non ci sono uffici, non ci sono impiegati? Assolutamente, ci sono impiegati, ma sono soltanto all'interno di Prestiamoci, non ci sono sportelli e tutto funziona via web, tutto online. E quindi chi decide di chiedere un prestito entra nel nostro sito, compila una serie di moduli e a quel punto poi rientra nella nostra attività, che è quella di fare uno screening, una valutazione del merito, e dall'altra parte chi è intenzionato a prestare i soldi anch'esso entra nel nostro sito e, seguendo una certa procedura, poi arriva ad attivare il prestito stesso. Questa attività esiste da quanto tempo? Cioè, siete già attivi, avete già un traffico, un portafoglio, o siamo ancora all'inizio? Siamo partiti all'inizio dell'anno, dopo circa 2 anni di lavoro preparatorio, sia dal punto di vista diciamo normativo che dal punto di vista del software e dell'applicazione. Siamo partiti all'inizio dell'anno, abbiamo ad oggi finanziato circa una quindicina di progetti, ce ne sono altrettanti in corso di finanziamento. Direi che il farsi conoscere adesso è l'elemento importante. Per capire di che cosa stiamo parlando, ti viene in mente qualcuno di questi 15 progetti particolarmente curioso, che magari per farci capire che tipo di investimenti stiamo parlando? Ascolta? Giustamente, gli importi sono comunque limitati a 25.000 euro, quindi si può finanziare da 500 euro a 25.000 euro, si può richiedere. E quando io mi riferisco a progetti, mi riferisco veramente a progetti nel senso più ampio, che quindi vanno dall'acquisto di una cameretta per i bimbi o il cambio dell'automobile di una famiglia a cui è arrivato un bimbo nuovo, ha un'attività invece microimprenditoriale, che può essere quella di un esercizio commerciale piuttosto che non di un artigiano. Questo si configura quasi come una forma di microcredito in qualche modo anche alle imprese. Quali sono poi le garanzie? Cioè, io presto dei soldi, come faccio ad essere certo che poi li riavrò indietro, visto che tutto avviene in forma digitale? Si configura assolutamente come una forma di microcredito, rientra nella grande, diciamo, nella grande famiglia del microcredito. Diciamo così che proprio in quanto rientra in quello schema, non c'è una vera e propria forma di garanzia formale dietro a questi prestiti, ovvero sia il nostro lavoro è proprio quello, una parte del nostro lavoro è proprio quello di valutare in maniera estremamente attenta i richiedenti, e quindi di farne una valutazione molto approfondita che faccia sì che poi le persone che hanno accesso a questa piattaforma abbiano, diciamo, tutte le caratteristiche per essere dei buoni prenditori e che poi con un'alta, il più alto possibile probabilità, ridiano indietro i loro soldi. Grazie Presidente. Voi siete in The Hub perché Prestiamoci è un'iniziativa italiana, è un'iniziativa tua che nasce a Milano, che no, quindi è proprio un'idea. Assolutamente, la Hub nasce da tre persone, due di Milano, una di Ivrea, l'amministratore delegato abita a Ivrea, quindi noi abbiamo uffici in Ivrea e a Milano. The Hub abbiamo trovato da subito il posto giusto, una fucina di idee, di persone e un grande allineamento nel modo di voler fare le cose, e quindi c'è stata intesa direi fin dall'inizio. Grazie Presidente, interessante, peccato che la qualità dell'ascolto non è stata proprio eccezionale, ma abbiamo capito il senso e ci piace. Arrivederci Paolo, ciao. Arrivederci, ciao. Ci grazie. Piace molto anche questo allineamento di cui Paolo Galvani, presidente di Prestiamo, ci ha parlato. Allineamento è una parola anche nuova, se volete, da questo punto di vista. E sebbene vi abbiamo presentato iniziative completamente diverse fra di loro, vi ricordo la criminologa ambientale, l'istituto, l'agenzia di comunicazione con annesso istituto di ricerca, piuttosto che appunto una struttura finanziaria di microcredito, effettivamente fra di loro si avverte questa intesa, questo feeling è la direzione in cui si va, mercati nuovi, business nuovi e anche modo di fare business nuovi, basti pensare che Prestiamoci non ha né una sede fisica ma è digitale e gestisce comunque rispettabili cifre. Usciamo adesso da The Hub ma non dal tema e a bordo riceviamo Grazia Pallagrosi che è presidente dell'Atelier del Riciclo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Noi parliamo di Atelier del Riciclo, vogliamo per una volta mettere non qualcosa di effimero ma sicuramente di particolarmente delicato, che non sia sempre rigorosamente o business oriented o critico come purtroppo in questo periodo, e quindi parliamo di un'iniziativa, l'Atelier del Riciclo, che è nata fra Porta Genova e zona Tortona qui a Milano ed è un eco concept store. Adesso questo ce lo spiega il presidente così non abbiamo più dubbi su che cos'è. Esatto, è proprio un eco concept store, è il primo esperimento italiano di store dove diciamo che la vendita si mischia con altre modalità di acquisto che non implicano l'utilizzo del denaro, perché noi abbiamo una parte di questo concept store che è dedicata all'abbigliamento, che è una swap boutique, quindi è un posto dove si scambiano i propri abiti con altri abiti, accessori moda, ed è una formula che stiamo già testando da un anno, perché abbiamo portato in Italia lo swapping all'inizio del 2009 e abbiamo testato la possibilità di introdurlo facendo prima degli eventi una tantum, che era ogni swap party. Poi abbiamo visto che lo swap è entrato nella mentalità anche degli italiani, e del resto all'estero sono già 15 anni. Ecco, soffermiamoci un attimo su questo, perché non è una roba sembra buttata lì, ma in effetti è toccante. Quindi il recupero del concetto del baratto, no? Che poi obiettivamente abbiamo associato sempre a realtà di grande povertà ormai, invece viene recuperato e addirittura, come dire, varca la soglia della marca, alza il tono e il livello dello scambio. E questo funziona? Sì, funziona, è entrato tutto diritto nel mondo del glamour, perché noi abbiamo iniziato agganciandoci proprio alle settimane di Milano Moda Donna, quindi alla Fashion Week milanesi, e quindi è un discorso di alto livello anche dal punto di vista dell'immagine. Scusi, ma anche alle persone che vengono a portare gli abiti piuttosto che le scarpe, parliamo di quello, giusto? Scarpe, sì, esatto. Cinture, eccetera, non per fare discriminazione, ma giusto per capire il fenomeno, anche queste persone sono di un certo livello, si direbbe? Sì, ci sono persone, in realtà la cosa straordinaria anche dal punto di vista sociologico che è successa nella sperimentazione di questo nuovo format è che è sparito il target, no? Se parliamo di marketing, il fatto che il target sia sparito è una cosa secondo me stravolgente, perché è diventato molto trasversale il tipo di pubblico. Anche per il tipo di formula che noi abbiamo creato, che avendo diverse categorie di valutazione, cioè le cose che si portano qua vengono valutate in diverse categorie, ce ne sono attualmente 7. Questo significa che sono comunque categorie di valore nei vecchi termini del denaro, per cui si parte da 5 euro e si arriva oltre gli 800 euro. Però essendoci diversi range di valore, tutti possono portare quello che hanno, a patto che sia in ottime condizioni e il criterio di scelta del nostro team, perché c'è un fashion team che sceglie poi e valuta, è il gusto, non è più il valore monetario dell'oggetto. E lo stato, immagino, anche. E lo stato, lo diamo proprio per scontato, perché certo, se non è in buono stato non viene accettato. Peccato che non possiamo continuare, il tempo e la nostra esposizione sta per finire, ma un'ultima curiosità, quando poi avviene lo scambio, l'atelier cosa si guadagna? Una cintura, una scarpa? No, ci sarà qualcosa. Gli abbonamenti, cioè chi vuole scambiare, invece di pagare lo scambio, perché esiste questa formula anche in altri negozi in Italia, che però sono negozi, quindi invece di far pagare il cambio, fanno pagare il capo, fanno pagare il cambio. Lo scambio. Da noi invece si sottoscrive un abbonamento che ha costi diversi a seconda della durata. Una volta che si è abbonati, poi si può scambiare senza limite, quindi si possono portare tutti i capi che si vogliono. Noi abbiamo delle swapper che vengono tutti i giorni. Parliamo anche a noi, perché ci incuriosisce davvero tanto. Grazie, Presidente. Piacere. A presto. Grazie anche a voi di aver viaggiato con noi, voi ascoltatori. E poi, ovviamente, i ringraziamenti d'obbligo ad Anita Panizza in redazione e Paolo Corleoni in regia. Questo programma, e quindi anche i particolari sullo Swap Party, potete riascoltarli su www.radio24.it. A prestissimo. Grazie.